Ma che pensate che son matto? Eh sì, denartre regni rume. Un'altra radio Roma, la radio che ti fa uscire di sé. Bentornati nel cosmo di un'altra radio Roma. Io sono il vostro DJ Cocotte e questa è la vostra un'altra radio Roma. Spero che i miei precedenti podcast vi siano piaciuti. Spero che li abbiate scaricati, sia i miei, quelli di DJ Brontolo, quelli del nostro professore d'inglese venuto dal cosmo, DJ Gasperino, e naturalmente anche i super allucinati podcast del nostro DJ Campo. In questa notte, seduto sulla mia poltrona, vi andrò a presentare una serie di gruppi che vi renderanno la notte noise, dark e lunga. I Devochka è uno scatto di rabbia, di necessità, soprattutto di passione. Il progetto, nato nel 2003 a Ferrara, suona musica schizofrenica, di matrice punk noise e con pua di alternative rock. Con un poco di questo e un poco di quello, altrimenti la vita sarebbe noiosa. Ognuno ci trova quello che sente di più nelle proprie orecchie. Per noi è rock, e loro sono i Devochka, con il loro brano Corri, preso dall'ultimo album Perché Sorridere, out il 5 giugno del 2009, e di seguito un altro brano sempre dei Devochka, Noise Versus, preso dal primo album dei Devochka, Non Sento Quasi Più. Ed ora, Perché Sorridere? Qui c'è poco da ridere. Corri, corri, corri. Corri, corri a detto. Bloccato nel buio, provo terrore. Suoni, suoni e voci sembrano venire da un altro mondo. Spero, spero di sbagliare. Sì, una sensazione. questo arbitrio insospettabile. Negando la volontà inutile ma importante per noi, rimane una paura indecifrabile che comanda tutti i nostri gesti. E la panica che delimita il muro e tutto quanto il resto dei moti, dove non puoi competere a persone mosse da gelate ma grandi empatie. E resti in un rifugio dove il corpo prende a riverbero anziché passioni, ma come puoi risanare il tuo arbitro represso se si affoga nella tua collera. Se volete sapere tutto e ancora di più sui Devochka, andate sul loro sito www.devochka.it. E continuiamo ancora con tanto rumore, tanto noise e tante chitarre. Loro sono i Somber Light. L'idea fondante dei Somber Light, che verrà poi ripresa dal genere indie, è quella per cui chiunque può prendere in mano uno strumento musicale e salire sul palco, anche se si è nel proprio garage e non davanti a un pubblico composto da migliaia di persone. È una musica che entra in noi, fa vibrare la nostra pelle e il nostro corpo. Loro sono i Somber Light, sono di Legnago, provincia di Verona, e questa è la loro Free Time, seguita dal loro struggente Destroy. Somber Light per voi nella notte di Roma, Nartra Radio. Roma. Thank you.

Blessed. sul MySpace di Somberlight che il loro primo LP autoprodotto è disponibile in 510 copie. Sarà composto da 4 canzoni: Destroy, Sarah Red, Two Different Lives Will Cross Each Other e Free Time. Comunque, per ogni informazione andate sia su coop.tv, dove trovate il loro punto web dove sapere qualunque informazione, da dove vengono, che cosa fanno, che cosa pensano, e anche il loro, MySpace, e seguite questi ragazzi di Legnago che sono veramente un portento. E passando dai Somberlight andiamo in un altro mondo di noise e di voce urlate contro il vento. Loro sono i miei preferiti, li ho già messo in 2 podcast, non mi ricordo quali, però il primo e il terzo mi sembra. Comunque, andare a controllare. Loro sono Anima di Legno e provengono dalla Sardegna, e quest'oggi vi farò ascoltare 2 brani che ancora non vi ho fatto ascoltare negli altri podcast, e sono Quello che cerchi e Candele. Trovate su MySpace e su www.coop.tv informazioni su Anima di Legno, Somberlight, Devochka e qualunque altro gruppo che vi frulli per la testa. Ma ricordatevi, su un'altra Radio Roma circola solo musica libera in bassa fedeltà. E per voi, e per nella voi, notte per romana, la notte romana, la notte romana, Anima di Legno, Anima di Legno, di Legno, di Legno. se non mi interessa un approccio idealmente perfetto in questa esistenza. Bentornati sulle frequenze di Nartra Radio Roma. Come vi sono sembrati Anima di Legno? Vi sono piaciuti? Comunque potete lasciare ogni tipo di commento, ogni tipo di critica e ogni tipo di insulto sul nostro blogspot www.nartraradioroma.blogspot.com. E se volete potete anche inviarci i vostri podcast, li inseriremo nella nostra playlist, li metteremo special guest podcast solo su un'altra Radio Roma. Comunque, continuiamo, andiamo avanti con la nostra musica pesante questa notte, molto noise. Loro sono Maniscalco Maldestro, c'è poco da dire su di loro. Sono nati nel 2000, nel 2005 hanno fatto il loro album d'esordio, dopodiché hanno continuato a inanellare successi su successi, successi su successi, successi su successi, successi su successi. Forse non li conoscete, forse li conoscete, li avrete avvistati per caso nel cosmo di Nartra Radio Roma. Ora per voi la pesantezza di un brano che a me piace moltissimo, si chiama Niente io comprendo, e dopo una folk rock psicadelica song, Carta Stagna, per voi Maniscalco Maldestro, solo ed esclusivamente su Nartra Radio Roma. Roma, Roma, Roma. Maniscalco Maldestro. Tra l'invidia e le Comunque potete anche voi fare un vostro podcast, metterci dentro le vostre parole, i vostri pensieri e tutta la musica che volete. E soprattutto musica che sia libera. Libera da copyright SIAE, solo Creative Commons. E comunque se andate sul nostro blogspot potete cercare nei nostri siti che vi suggeriamo. Per ora io sto andando avanti esplorando il mondo di Cube.tv e ne sto trovando di gruppi molto interessanti e molto noise, molto sudici come i prossimi. Loro sono Shopping Gianna e affrettiamoci ad ascoltare i loro brani Etna Gigante e Settembre in Festa. Micidiali Shopping Gianna, solo su un'altra radio. Bravo! We'll be right back. finalmente Shopping Jam. Li avete ascoltati, sono molto contento perché è un gruppo che mi ha subito colpito appena l'ho sentito su Q.tv. Comunque potete andare sul loro sito e anche su Q.tv e scaricare l'intero brano. Vi lasceranno ascoltare la loro musica, micidiale, sudicia e senza freni. Comunque continuando, abbiamo un altro interessantissimo gruppo, loro sono gli Ethereal e nascono nei primi anni del XXI secolo come sintesi sonora di un disagio mentale, o meglio tre: Willy al basso, Guido alla batteria, Marco alla chitarra. Tutt'oggi non ne sanno il perché. La spinta maggiore nella produzione artistica è quella derivata dalla volontà di non suonare. Etereo è l'aggettivo che meglio descrive lo stile della band, oggettivo quasi obbligatorio quando si affronta un genere che stenta a trovare definizioni. Proprio l'esigenza di uscire da una mentalità accademica che schematizza la composizione, castrando ogni genere di innovazione potenziale, ha spinto il gruppo ad abbandonare i vecchi progetti per dedicarsi interamente a ciò che oggi si chiama The Ethereal, e ci andiamo ad ascoltare il loro psicodelico Liver. Loro sono The Ethereal. Buon viaggio su un'altra Radio Roma. La notte è fonda e voi state andando a fondo, perciò aggrappatevi forte e salite dove siete? Nel cosmo di un'altra Radio Roma. Ed ora mettetevi comodi, spegnete ogni tipo di luce, ogni tipo di rumore intorno a voi, prendete le vostre cuffiette, infilatele nelle orecchie e ascoltatevi i mastodontici Bava con la loro Il mio compleanno. Loro sono Alessandro, batteria, Manuel, basso, Lorenzo, chitarra, Raffaele, voce. Loro sono i Bava. Bava con la H. H tra la B e la A, una grandissima H. Solo per voi, Bava. Su un'altra Radio Roma. Disidrati e anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Prossima bomba qui su un'altra Radio Roma. Vi arriva direttamente da Roma. Loro sono i The Floor, duo composto da Cristian Ciccarelli ed Emiliano Di Lodovico. Nati nel 1999, entrano a far parte della Soup Sound Records solamente nel 2004. Ed infine il loro primo album, Industrial, nel 2005. E da cui prendiamo questo brano, che si chiama Emostatico. Loro sono i The Floor. Io l'ho visti una volta nel 2008, mi sembra, all'Init, un locale qui a Roma, ed erano veramente oscuri, potenti, al di sopra di ogni aspettativa. Per voi da Roma, qui su un'altra Radio Roma, The Floor. The Floor. The Floor. We'll be right back. Nartra Radio Roma, è onorata di presentarvi, finalmente, la Megafono Aperto Studio Recordings e di presentarvi soprattutto il personaggio che si cela dietro l'alter ego di Rolando Furioso. Lui, personaggio acidissimo e psichedelico di nascita siciliana, suona di tutto, ma veramente di tutto. Ogni cosa che emette suono, lui la usa. Usa la sua voce come tubo di uscita per le sue insofferenze e crea un muro di suono con la sua chitarra, il suo basso e la sua batteria. Il suo progetto si chiama La Chanson de Rolando. Ogni tanto si fa accompagnare dai suoi amici, ma a volte, e per la maggior parte, è da solo, di fronte a tutti. Vorrebbe distruggere tutto. La traccia che vi sto inondando nel vostro cervello è Suicide Blues Blast. Lui ha lasciato la sua Rolando su un'altra